1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Siamo qui, sono le 7:20 minuti, cari ascoltatori, forza amici miei debosciati, che fate? Che fate? Dovete produrre, come dico sempre, a quest'ora. Allora, con Oscar Giannino più avanti avremo ospite il procuratore nazionale antiterrorismo e antimafia, Franco Roberti, perché vogliamo capire se davvero le nostre vite ora rischieranno di essere anche un po' stravolte dopo gli attentati di Parigi. Che succederà? C'è anche il giubileo alle porte. Ne parleremo con lui e con voi, ovviamente. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire dalle ore 8. I centralini sono aperti. Il numero per i vostri messaggi invece è messaggi anche via WhatsApp al 349 238 6666. Ora andiamo a leggere i giornali. È martedì 17 novembre e praticamente tutti i titoli dei giornali sono dedicati all'appello di Hollande, presidente francese, che dice: Hollande è guerra, l'Unione Europea ci aiuti. Questo è il titolo del Sole 24 Ore in prima pagina. Il Sole mette anche la tenuta dei mercati. I mercati tengono, corsa ai bond. Sempre come titolo principale. Eccola qui una rapida carrellata, praticamente in fotocopia i titoli. Il Corriere della Sera: è guerra, l'Europa ci aiuti, è la frase di Hollande. Repubblica: l'appello di Hollande agli alleati, l'Europa dichiari guerra all'IS, cioè lo Stato Islamico. Il Messaggero: siamo in guerra, aiutateci. La Stampa: Francia in guerra, l'Europa ci aiuti. Il Giornale: iniziata la guerra, Renzi tentenna. Il Fatto Quotidiano ha un titolo un po' diverso, e cioè il rapporto americano sull'ISIS: li stiamo armando noi. Questo è il titolo di prima pagina. Invece il Secolo XIX pone la domanda: in guerra per la Francia? Mentre Libero: la vita di un italiano per Renzi vale 2 euro. Sono stanziati solo 120 milioni dal governo italiano. Il Manifesto invece mette come titolo la foto del Parlamento francese: chiamata alle armi. Questo è il titolo di Hollande. E la Sesta République invece è l'unità, la Francia contro l'ISIS, cambia la Costituzione e avverte il mondo: è guerra. Insomma, come vedete, il tema è questo. Hollande ha parlato alla nazione, ma ha parlato al mondo, ha parlato all'Europa, invocando l'aiuto europeo. Davanti alle Camere riunite ha chiesto una riforma costituzionale per distruggere lo Stato Islamico. Infatti il titolo di pagina 2 del Corriere della Sera è questo: poteri eccezionali. Tra l'altro racconta Stefano Montefiori nel suo reportage dalla Francia che Hollande dichiara l'ISIS non un gruppo ma un esercito terroristico, e cita il jihadismo ma non cita l'Islam, ribadisce ancora una volta, come detto subito dopo, saremo spietati. Insomma, il tema è questo. Chi segue ora la Francia in questa guerra? Le leggi speciali sono quelle che ha invocato lo stesso Hollande, ma soprattutto è il caso di andare in guerra? Fausto Biloslavo sul Giornale a pagina 5 interpella anche alcuni generali e fa un po' i calcoli di un eventuale conflitto. 100.000 uomini e 2 mesi. Queste sono le prime stime per un attacco di terra all'ISIS. Come si suol dire in questi casi, i boots on the ground, gli scarponi sul terreno, per chi invoca l'arrivo proprio di militari. L'ipotesi degli esperti per sconfiggere il califfato è questa: 100.000 uomini servono, secondo il generale Carlo Cabigiosu, 70-80.000 uomini. In realtà possono bastare, ma ce ne vogliono 20 o 30.000 come robusta riserva. Per l'ex generale Carlo Jean basterebbero solo 40.000 uomini, 2 divisioni pesanti, mentre l'ex generale dell'aviazione Leonardo Tricarico fa presente che il ruolo chiave deve essere giocato dall'intelligence. Insomma, tutti i calcoli, le basi di partenza sarebbero Turchia, Giordania e Iraq. La verità, come scrive Fausto Biloslavo, che Obama per primo è scettico sull'intervento. Gli Stati Uniti frenano e dunque sembra difficile questa soluzione. Se veniamo all'Italia, il retroscena che interpreta, come spesso avviene, il pensiero di Matteo Renzi che filtra attraverso il retroscena sui giornali è affidato a Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. Siamo a pagina 7, ecco cosa pensa Renzi in questa formula che non sono mai dichiarazioni esplicite di Renzi, ma la formula Renzi dice ai suoi collaboratori e poi finisce tutto sui giornali. Ebbene, Renzi la pensa così: io sono prudente per ovvie ragioni quando si parla di guerra, dobbiamo essere seri, non stiamo discutendo di un congresso di partito ma di un conflitto e noi non vogliamo entrare in guerra. Insomma, è un Matteo Renzi che, scrive il Corriere, tira il freno a mano, anzi invoca prudenza e serietà ai ministri. Si raccomanda loro, per questo, scrive il Corriere, vengono viste già come fuori linea le dichiarazioni del ministro della difesa Pinotti, favorevole alla possibilità che il nostro paese estenda i bombardamenti oltre l'Iraq. Pinotti viene ritenuta una brava ministra, scrive il Corriere, ma troppo influenzata dai generali, mentre Paolo Gentiloni, ministro agli esteri, è considerato in totale sintonia con il premier. Tanta prudenza è dettata anche da un altro fatto, un secondo fattore dietro la cautela adottata da Renzi: i suggerimenti che provengono dai servizi segreti vanno nella direzione che, se non si vuole mettere il paese nel centro del mirino, è meglio evitare di trasformare questa vicenda in un conflitto con i terroristi islamici. Per questa ragione a Palazzo Chigi non piacciono i toni sopra le righe di alcuni esponenti politici e anche di taluni ministri. Insomma, non reagire distinto. Anzi, niente inutili allarmismi e, se possibile, non spaventare gli italiani utilizzando la parola guerra. Ecco, io l'ho già utilizzata, come detto, anche adesso e mezza, anche ora, 4, 5, 6, 7 volte. Non vorrei essere accusato di procurato allarme. Comunque la linea del governo italiano è questa. Anche Gentiloni, scrive il Corriere, l'Italia farà di più contro l'ISIS, per il giubileo sarà vietato volare su Roma e quindi dispiegati anche di 700 militari in vista del giubileo, ma no alla parola guerra. A questo punto però vi devo segnalare l'articolo di Roberto Bongiorno, l'inchiesta sul finanziamento all'ISIS, perché ieri il presidente russo Putin al G20 ha un po', come dire, rotto la calma, rotto il pacifico dialogo tra tutti, si è seduto lì, in pratica ha detto: all'ISIS ci sono soldi che provengono da paesi che siedono qui al G20. La stampa lo dice molto chiaramente, il leader russo mette in imbarazzo sauditi, cioè dell'Arabia Saudita, Qatar, Emirati e Turchia. Cioè si è seduto lì e ha detto: tra di noi c'è gente che finanzia l'ISIS. Il titolo del Fatto Quotidiano è proprio questo in prima pagina: l'Italia vende caccia, gli aerei caccia al Kuwait, e proprio dal Kuwait partono milioni di dollari al califfo. Ecco allora che l'inchiesta di Roberto Bongiorno è molto interessante, in prima pagina del Sole 24 Ore. La cassaforte del terrore. Greggio illegale e donazioni sono due sostanzialmente i canali attraverso i quali si finanzia l'ISIS. Uno, appunto, il greggio illegale, il contrabbando di petrolio. Fermare questo contrabbando è ciò che hanno capito gli Stati Uniti. Per la prima volta, quando è iniziata la campagna aerea, i caccia americani hanno colpito anche le autocisterne vicino al giacimento di Omar, il più grande dei 9 pozzi controllati dall'ISIS. Ma c'è un altro finanziamento, questo più occulto, questo più difficile da stroncare. Alcuni paesi sunniti del Golfo hanno contribuito più o meno indirettamente, scrive Bongiorno, a elargire generose donazioni a gruppi islamici dell'opposizione armata siriana, inclusi quelli estremisti. Dunque Doha, il Qatar, Riyadh, l'Arabia Saudita sapevano di nutrire una bestia feroce che poteva ritorcersi contro, ma i loro occhi impedire che prevalesse la coalizione sciita in Siria ed evitare che il presidente Assad vincesse era la priorità. E dunque il piccolo e ricchissimo Qatar da tempo è sul banco degli imputati. Pensate che nell'agosto 2014 il ministro tedesco per la cooperazione e sviluppo Müller disse: dovete domandarvi chi sta armando e finanziando l'ISIS, e la parola chiave è Qatar. e poi Riyadh, che ha inserito l'ISIS nella lista delle organizzazioni terroristiche, ma non fa molto davanti ai tanti donatori privati che trasferiscono denaro dall'Arabia Saudita attraverso i money transfer all'ISIS. E dunque eccoli qui i finanziatori. Il reportage, la cassaforte del terrore, petrolio illegale, tasse, riscatti e donazioni è l'inchiesta di Roberto Bongiorni in prima pagina del Sole 24 Ore. Prima di continuare, i tanti articoli dedicati alla vicenda del dopo Francia, tra poco vedremo gli sviluppi dell'inchiesta, è il momento dell'articolo che ci fa pensare della giornata. Sì, torna in questo spazio l'articolo Mani sul volante, e quindi apriamo una parentesi dedicata all'Expo, perché Maria Sorbi, a pagina 23 del giornale, racconta la coda amara per l'Expo. Tutte le imprese che non sono ancora state pagate da coloro che hanno fatto i padiglioni. L'America deve ancora agli Stati Uniti 20 milioni di euro alle imprese. Mosca ha debiti con 9 aziende. A un certo punto, racconta il giornale, la Russia ha cercato di aggrapparsi anche ad alcune scuse quando un'azienda marchigiana si è presentata dicendo: «Oh, noi siamo stati fornitori, ci dovete i soldi». E la Russia ha cercato di dire che i lavori erano stati fatti male, ma è arrivata una perizia del Tribunale di Milano a certificare che tutto era stato eseguito a regola d'arte. Quindi ci sono i soldi da pagare. La coda amara per l'Expo, imprese italiane che hanno lavorato e non si beccano milioni e milioni di commesse realizzate. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, la roulette russa dell'informazione. Vabbè. Allora, gli sviluppi dell'inchiesta su Parigi dopo la tragedia. È caccia all'uomo? Mentre è stato preso colui che ha ritenuto l'artificiere, colui che ha confezionato le bombe, è caccia all'uomo nei confronti di Salah Abdesalam, fuggito in Belgio dopo il massacro. La sua auto è stata fermata al confine, pensate, e lasciata ripartire. Tra l'altro Salah Abdeslam è colui che ha accompagnato il fratello, è uno dei tre fratelli, e lui, pensate, ha accompagnato il fratello a farsi saltare in aria. Cioè, c'è anche questo, tenete conto di questa cosa, cioè ha accompagnato, ripeto, suo fratello in macchina. Poi sono arrivati al posto dove doveva colpire il fratello, ha detto: scendi, vai a fare il martire, gli avrà detto, non lo so, il kamikaze. Ecco, stiamo parlando di gente così. Carlo Bonini e Fabio Tonacci raccontano di questa corsa contro il tempo per mettere le mani su Salah Abdeslam, l'ottavo uomo di venerdì 13, per rendere inoffensiva la sua disperazione da animale braccato e per arrivare questa volta un istante prima che tutto nuovamente si compia, a Parigi, piuttosto che in un altro angolo della Francia, o a Londra, Roma, Washington. L'angoscia è alimentata dalle intercettazioni preventive dei servizi interni francesi, che da sabato mattina hanno registrato un'escalation di segnali, appelli, sollecitazioni negli ambienti del radicalismo islamista a colpire ancora la Francia. E quindi si vive nel terrore che possa farlo questo uomo scappato, possa addirittura aver attivato altre cellule di altri terroristi pronti a colpire. Il timore, ovviamente, il terrore è quello che si sparge per la Francia stessa. Mentre invece è stato identificato quello che sarebbe la presunta mente di tutto ciò. Abdelhamid Abaoud, che se ne sta tranquillo in Siria, dove c'è appunto lo Stato islamico che regna sovrano nelle zone. Ebbene, i giornali, il Corriere della Sera pubblica un'intervista. Ebbene sì, un'intervista che Abdelhamid Abaoud ha rilasciato alla rivista dello Stato Islamico, Dabiq, si chiama questa rivista. Ovviamente potete immaginare le domande e le risposte. Ecco qui, Dabiq chiede, l'intervista la trovate tradotta a pagina 11 del Corriere della Sera, perché sei andato in Belgio? E risponde Abdelhamid Abaoud: Allah mi ha scelto, mi ha inviato in Europa a terrorizzare i crociati che stanno facendo la guerra ai musulmani. Sentite bene l'uso dei termini. Allah mi ha scelto per terrorizzare i crociati. Come sapete, il Belgio fa parte della coalizione di crociati che attaccano i musulmani d'Iraq e dello Stato Islamico. E come ha fatto la stampa degli infedeli a ottenere una tua foto? Chiede Dabiq, cioè questa rivista. Un fratello aveva girato un filmato, ha perso la cinepresa e questa è stata successivamente venduta da un traditore a un giornalista occidentale. Ho visto di colpo la mia foto su tutti i giornali, ma gli infedeli sono stati accecati da là. Sono stato perfino fermato da un poliziotto che mi ha fissato e invece mi ha lasciato andare. Questo è stato un miracolo di Allah. E poi racconta un'operazione di polizia in Belgio alla quale lui sfugge. Ovviamente il racconto non è che può essere confermato da fonti indipendenti, ma comunque raccontaci di come sei tornato allo Stato Islamico. Allah ha accecato gli infedeli una nuova volta e sono riuscito a scappare, arrivare fino a qui con tutti i servizi segreti che mi davano la caccia. Questo dimostra che il musulmano non deve temere la reputazione esagerata dei servizi di intelligence dei crociati. Insomma, crociati, infedeli, Allah, questi sono i termini utilizzati da Abdelhamid Abaoud, la cui foto campeggia un po' su tutti i giornali. È considerato il belga di origini marocchine, mente di tutti questi attentati. Tra l'altro, che dobbiamo fare? Cioè, quando parla di servizi di intelligence non all'altezza in Occidente, forse su questo ha totalmente ragione questo simpatico signore dalla Siria, perché leggete la notizia che Giuliano Foschini e Fabio Tonacci pubblicano su Repubblica, pagina 9. L'Italia scarcerò il predicatore che indottrinava i futuri kamikaze. È una vicenda che riguarda l'arresto a Bari di Bassam Ayaci, allora 62enne, oggi ha quasi 70 anni, che fu arrestato a bordo di un camper in compagnia di un ingegnere belga, tre siriani e un palestinese. Bassam Ayaci fu accusato di terrorismo internazionale perché gli trovarono materiale di Al-Qaeda, il testamento di un martire, così si chiamano, martire di 24 anni, materiale di propaganda islamista, fu mandato a Bari e poi, come al solito, scarcerato. Non c'era motivo di pensare che stesse progettando un attentato in Italia. Scarcerata è una vicenda, scrive Repubblica, che sta imbarazzando non poco il nostro paese e l'Italia a livello internazionale, perché questo Bassam Ayaci è colui che è considerato aver avuto un peso nell'indottrinamento della mente delle stragi di Parigi, delle menti di questi ragazzi che poi si sono fatti saltare in aria. Questa è un po' la situazione anche dal punto di vista dell'inchiesta. Vabbè, prima di parlare di altre cose, perché anche la politica va avanti in Italia, la cronaca va avanti, oggi i giornali dedicano qualche pagina di più agli altri temi che non siano quelli di Parigi, risaluto Mauro Meazza. Buongiorno Mauro, come va? Buongiorno Alessandro, sono qui che leggo il Sole 24 Ore avidamente, devo dire. Ecco. So che l'hai già letto avidamente, almeno nella parte che riguardava il reportage di Bongiorni sui finanziamenti all'ISIS, quindi me ne compiaccio. Ti voglio anche segnalare appunto un'analisi sul comportamento dei mercati. Come no? Che sono andati, come sappiamo, bene, hanno reagito bene, ma bisogna poi guardare appunto ai vari comparti, quelli che hanno reagito meglio e quelli che invece hanno reagito peggio. Ti spieghiamo tutto comunque, ti spiega tutto Vito Lops a pagina 3, quindi puoi tranquillamente attingere a questa informazione. Ecco, ti volevo segnalare invece, stavi dicendo appunto ci sono anche altre cose, la politica ad esempio continua la discussione sulla legge di stabilità. Caro Milan. Certo. Caro Milan, a parte che mi sembra che ti vogliono fare causa. Forse sì? La tua squadra, non a te. Non so, l'ho letto su Impresa. Sulle pagine di Imprese e Territori del Sole 24 Ore, quindi forse avevo capito, facciamo causa al Milan e pensavo parlassero di te. Vabbè. No, non è così, evidentemente. Se chiedono quei soldi, non li ho. Stiano subito tranquilli. Ma guarda, a proposito di soldi, abbiamo anche tante cosine sulla voluntary disclosure, ma te lo dico tra un attimo. Volevo segnalarti sulla legge di stabilità. Oggi, stamattina, ci danno le pagelle. La commissione ci dà la pagella. Scrive Beda Romano che siamo sul 6 meno meno praticamente, cioè dice sì va bene però si impegnano poco, ci impegniamo poco, anche tu ti impegni poco fatalmente, sì, sì. È un po' anche colpa tua secondo me. Comunque vediamo che ci dicono dovremmo passare, ma lo spiega tutto Beda Romano. Invece sulla legge di stabilità appunto in Italia c'è da ragionare anche sulle modifiche in arrivo, ad esempio la famosa abolizione di IMU e TASI, che comprenderebbe anche la casa dell'ex coniuge data all'ex coniuge eccetera, ma anche qui ti spieghiamo tutto nelle prime pagine del Sole 24 Ore, mentre invece su quelle di norme e tributi, sì, che tu leggerai come sempre con la dovuta attenzione, ti parliamo di depenalizzazione. Non so se è perché sono giornate in cui naturalmente siamo presi da altri pensieri, ma intanto il governo ha varato un decreto legislativo adesso all'esame del Parlamento per depenalizzare una serie di reati, tra cui oggi lo riferiamo, ne scrive Giovanni Negri, ci sono anche i reati connessi, alcuni reati connessi all'antiriciclaggio, ma vedi tutto su norme e tributi. Poi oggi tra l'altro parliamo anche, come ti dicevo, di Voluntari e di Scrajur. Eccola. Sulle donazioni avvenute all'estero, non so se tu vorresti sostenere che i tuoi 2 eurini te li hanno regalati, te li ha regalati uno straniero generoso, una cosa così. Va bene. Nel caso tu volessi sostenere questa tesi, comunque sappi che l'Agenzia delle Entrate nella Direzione Regionale Lombardia ha diramato una serie di precisazioni, ma se il donante fosse italiano, allora comunque le imposte restano dovute, caro Milan. Ecco, mi raccomando, mettiti una mano sulla coscienza anche per tutti noi. Oh, poi è martedì, giusto? È martedì, e quindi è il momento del condominio. Oh, arriva, è ritornata allora la pagina di condominio. Oggi ti parliamo, tra le altre cose, di mediazione e anche di pagamenti tardivi della MAV, sai, la spesa, sì, condominiale, insomma. Ecco, però può esserci il caso in cui uno ha disposto per tempo, poi la banca ha operato invece fuori tempo, e ti precisiamo qual è il comportamento, qual è, se si rischia oppure no una sanzione. Tutto sulle pagine condominio, questo e molto altro sulle pagine Sole 24 Ore di oggi. E a questo punto, caro Alessandro, il mio abituale saluto, un po' magari in tono minore. Traffico. Welcome back my friends to the show that never ends, ladies and gentlemen, Alessandro Milan, dialetto di Buckingham Palace. Mitico da Buckingham Palace, grazie caro ascoltatore. Allora, siamo qui, la politica italiana, cominciamo a dare uno sguardo su quello che succede. Ieri De Luca, Regione Campania, sapete che c'è un'inchiesta in corso per il giudizio che lo ha mantenuto lì e l'accusa nei confronti di un giudice, di suo marito, di avere brigato in cambio di una sentenza a lui favorevole. C'è un'inchiesta a Roma. De Luca via. Ieri c'era la presentazione in consiglio regionale, una presentazione che però è finita un po' male, perché il Movimento 5 Stelle ha scatenato il caos, come titola Repubblica, pagina 22, un assedio verbale vero e proprio al governatore indagato, microfono, fogli strappati, la presidente dell'assemblea colta da malore. Insomma, una vicenda che poi alla fine De Luca ha commentato così: una giornata intera perduta a causa della sceneggiata dei 5 Stelle, non succederà più. Anche il Corriere della Sera dedica una pagina a questo: proteste dei 5 Stelle, insulti e malori, salta il Consiglio regionale con De Luca. Tra l'altro, giornata in cui il Movimento 5 Stelle ieri, un po' nel silenzio, perché ovviamente si parlava di altro e poi è un comune solo che è andato a votare, ha conquistato un comune lombardo. Ma voi dite, ma come? Si è votato? Sì, si è votato a Sedriano, che è stato il primo comune della Lombardia sciolto per mafia, e per cui si è andati a rivotare. Chi ha vinto? Ha vinto appunto un esponente del Movimento 5 Stelle, si tratta di Angelo Cipriani, che è un maresciallo della Guardia di Finanza, che ovviamente avrà preso il suo congedo per partecipare, o l'aspettativa, non lo so, per partecipare a queste elezioni, ed è stato eletto sindaco. Ha battuto di pochi voti il candidato del Partito Democratico per 39 voti, è il primo sindaco grillino della Lombardia. C'è il commento del Corriere della Sera: Movimento 5 Stelle prende Sedriano e Casaleggio dice ora Roma. Il sindaco Angelo Cipriani, 45 anni, maresciallo della Guardia di Finanza in servizio a Rho, è il nuovo sindaco di Sedriano. Mentre sempre per quel che riguarda la politica c'è stato un summit segreto, questo almeno racconta Repubblica, con Carmelo Lopapa tra Berlusconi e Salvini. Il candidato sindaco di Milano è sempre al centro dell'attenzione e il candidato sindaco potrebbe essere l'ex ministro Lupi. Su Lupi potrebbero convergere le idee di Salvini e Berlusconi, staremo a vedere. La cronaca. Vi segnalo su Repubblica una pagina di Paolo Berizzi che cita questo. Raffaele Cutolo, ex capo della nuova camorra organizzata, 13 ergastoli, li sta scontando al 41 bis a Parma, sarebbe pronto a collaborare. Vi svelerò i segreti del sequestro Moro. Così almeno dice Raffaele Cutolo, pagina 29 di Repubblica, dal carcere, avrebbe fatto già rivelazioni con verbale secretato a un luogotenente dei carabinieri, a un magistrato. Raffaele Cutolo pronto a collaborare su molti segreti dello Stato, questo almeno giura Repubblica. Mentre una vicenda che proviene dagli Stati Uniti da tanti anni fa è la vicenda di Ilenia Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power, che racconta il giorno potrebbe avere una clamorosa svolta. Stefano Brogioni racconta sul giorno a pagina 18 la svolta sarebbe questa. Ci sarebbe una sorta di confessione o comunque di destino macabro per Ilenia Carrisi, che sarebbe stata uccisa da un camionista che le aveva dato un passaggio. Questa è la rivelazione che arriva dagli Stati Uniti, tanto che il DNA di Albano, secondo il giorno, sarebbe stato spedito negli Stati Uniti proprio per fare degli ulteriori controlli. Il confronto viene fatto con ossa ritrovate 21 anni fa. Potrebbe essere una svolta nel giallo Ilenia Carrisi? Questo scrive il giorno. Due notizie di cronaca veloce. Beh, la prima è questa. Ricordate quel poliziotto Fabio Tortosa, agente di polizia, che disse di Carlo Giuliani fa schifo, spero che faccia schifo anche ai vermi. Carlo Giuliani, ucciso durante il G8 di Genova, fu sospeso e rientra ora in servizio. Faccio vedere anche in diretta su Periscope. Difese il blitz alla Diaz, poliziotto torna in servizio. Dopo 8 mesi di sospensione anche dello stipendio, l'agente Fabio Tortosa torna in servizio. Lo scrive il giornale. Mentre che è successo al derby dei Pulcini a Torino? Il derby Juve-Toro. Il derby dei Pulcini finisce a botte tra genitori. Genitori! Genitori sono la rovina del calcio dei bambini. Genitori da sempre. Finisce a botte. C'è addirittura la foto, racconta La Stampa, con Paolo Coccorese, di una donna col busto al collo come dopo un incidente stradale in sedia a rotelle. È finito così, rissa, pugni, spintoni, insulti razzisti nei confronti di un ragazzino di colore. Ma è una roba incredibile. Juve-Toro, il derby dei Pulcini, finisce a botte tra genitori. Ma complimenti, sulla Stampa. Vabbè, fermiamoci qui. C'è solo la carta costa per Repubblica, che dedica una pagina a tutti coloro che danno l'eredità a cani e gatti. L'eredità a cani e gatti. A cani e gatti! Ma chi se ne frega!